Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Nell'attuale contesto economico globale, di fronte alla molteplicità e complessità delle sfide che siamo chiamati ad affrontare, diviene sempre più necessario disporre di alcuni strumenti di base, un bagaglio di conoscenze che aiuti a orientarci, a capire meglio, ad esempio, quale sia stata la reale portata della grave crisi finanziaria esplosa nel 2008, della recessione che ne è seguita, ma anche della crisi dei debiti sovrani dell'Eurozona, ma anche per meglio comprendere le decisioni di politica monetaria non convenzionali messe a punto in questi anni dalla Banca Centrale Europea. Ci viene per questo in soccorso un importante volume, un manuale appena pubblicato dal Mulino dal titolo Politica economica, teoria e prassi, giunto alla sua seconda e aggiornata edizione italiana, la prima edizione francese del 2004, la quarta del 2017, in cui compaiono ora un saggio di Marco Buti, che è stato per 10 anni direttore generale della Direzione Affari Economici della Commissione Europea e appena nominato capo di gabinetto del commissario agli affari economici Paolo Gentiloni, un contributo del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e la prefazione a cura di Olivier Blanchard, ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Ne parliamo questa sera con il professor Alessandro Petretto, che insieme a Francesco Flaviano Russo ha curato il volume. Buonasera e benvenuto, professore. Buonasera, buonasera. Allora, prima di tutto vorrei che ascoltassimo insieme questo breve passaggio tratto dalla premessa al volume e poi ne parliamo insieme. Più sono fitte le interazioni tra teoria e politica economica, più grande è la responsabilità degli economisti. La crisi finanziaria ha gettato del sospetto sugli economisti, accusati di cecità e di compiacenza. A loro si è imputato un certo conformismo intellettuale, una fiducia eccessiva nei confronti dei meccanismi di mercato, una vicinanza troppo elevata con il mondo della finanza, un'indulgenza verso i potenti. Per quanto riguarda l'accusa della cecità dottrinale, spesso questa è fondata su una visione erronea. L'analisi economica non è il cavallo di Troia di un pensiero univoco di ispirazione liberale. Essa dà per acquisito che il mercato sia un meccanismo di allocazione delle risorse efficiente, ma fornisce anche gli strumenti che permettono di contenere gli effetti dei suoi fallimenti e delle disuguaglianze che determina. Quanto alla teoria, questa è indispensabile per mettere in luce i parametri chiave che faranno il successo di una politica, in un ambiente o in un altro. Allora, professor Petretto, ricordo che nel volume sono contenuti i saggi di Agnès Benassi-Curé, Benoît Curé, Pierre Jacquet e Jean Pisani-Ferry. Ecco, si parla ovviamente del ruolo degli economisti, ma prima di tutto vorrei che lei spiegasse meglio ai nostri ascoltatori i tratti portanti di questo manuale, che è un manuale importante ed è peraltro scritto non con linguaggio accademico, ma sostanzialmente divulgativo, quindi aperto a tutti. Sì, dunque, il manuale è a due livelli. C'è un livello narrativo che è caratterizzato dall'aggiornamento totale rispetto alla situazione attuale, quindi con tutte le conseguenze di natura istituzionale e operativa, diciamo, nella politica economica. E questo è leggibile sostanzialmente da tutti, è una descrizione minuta delle vicende che si sono susseguite in questi ultimi anni, e anche fornire spiegazioni piane della teoria. Poi c'è un secondo livello che è contenuto in dei quadri che conduce, diciamo, il lettore anche a degli approfondimenti analitici, e questo è naturalmente molto più utile per gli studenti universitari. Quindi è un manuale ovviamente universitario, però sì, ha questa capacità di, come dire, di narrazione, di spiegazione dei fatti che si sono evoluti. Ecco, c'è un aspetto, professore, che credo possa essere interessante per i nostri ascoltatori, cioè capire, indagare su quali siano in realtà i margini margini effettivi a disposizione della politica economica, vale a dire di chi governa l'economia nei vari paesi, per indirizzare al meglio le risorse, per combattere le diseguaglianze. Ecco, nel volume voi ne trattate in modo diffuso. Sì, questo è, diciamo, il passaggio chiave nell'evoluzione della politica economica, che è sempre divenuta sempre meno facilmente discrezionale, perché il mondo è divenuto via via più imperfetto per la natura degli scambi internazionali, della globalizzazione, dell'evoluzione demografica. Cioè, la politica economica si è adattata alla mutevolezza del mondo, e quindi la possibilità di intervenire via via ha dovuto avere nuovi strumenti e nuove forme di intervento rispetto a quelli canonici, che sostanzialmente erano pochi: un po' di intervento della politica monetaria, un po' di politica fiscale e niente più. Adesso, per i fenomeni nuovi che si sono manifestati, è chiaro che esiste tutta una forma di intervento completamente diversa. Basti pensare al fatto che la gran parte dei manuali di politica economica, e anche questo nelle versioni precedenti, si dedicava fondamentalmente al problema di combattere l'inflazione e aveva come riferimento centrale l'economia occidentale. Adesso conosciamo la deflazione, i tassi di interesse sono bassissimi, e quindi è un mondo completamente diverso, e da qui le politiche non convenzionali anche. Ecco. Sì, ecco, e poi qui entra in ballo il ruolo degli economisti, ovviamente, che fa da sfondo a tutto il volume. Ci sono state polemiche, agli economisti è stato attribuita la scarsa capacità di previsione delle crisi. Ecco, ma lei ritiene che siano fondate queste critiche? Ma dunque, c'è stato un passaggio in cui la disciplina economica ha perduto un po' il suo radicamento all'uomo, alle scienze umane, e naturalmente quando si pretende che l'economia politica e la politica economica diventino scienze esatte come la fisica, si abbelliscono i modelli di riferimento, e quindi tutto bene, perché su quelli bisogna anche sapersi muovere, però si perde l'aggancio con la società, e quindi l'economia è una scienza sociale assolutamente imperfetta, che quindi deve avere. Questo secondo me è stato la responsabilità, se così possiamo dire, maggiore degli economisti, che innamoratisi dell'oggetto su cui hanno trascorso le loro carriere accademiche, naturalmente hanno perduto un po' questo collegamento. Però questo è un libro sofferto, un libro che gli autori riconoscono di essersi imbattuti in questa problematica, e fanno, rispetto alle versioni precedenti, molto più critico e molto più diciamo possibilista su visioni alternative rispetto a quelle che generalmente venivano seguite in passato. Sì, uno degli oggetti di discussione di questi anni, in seguito alla grave crisi esplosa nel 2008, riguarda poi il tema fondamentale del mercato. Cioè, da più parti si mette in discussione il fatto che per decenni, come dire, si sia considerato il mercato come un meccanismo assolutamente infallibile, mentre noi abbiamo sperimentato che anche, insomma, nel mercato ci sono delle regole, quindi occorre anche una sì, policy. Questo è proprio vero per quella particolare segmento del mercato che sono i mercati finanziari. Sì. Lì si è avuto un'evoluzione tendente a sostenere che i mercati finanziari potessero autoregolarsi e che quindi avessero sostanzialmente una tendenza verso la perfezione e l'equilibrio. Questo è stato smentito. D'altra parte anche le teorie non sono sempre state così convinte in questa direzione. Come gli autori dicono nella loro prefazione, parlando della responsabilità degli economisti, qualcuno degli economisti non era in buona fede, bisogna anche tenere conto del fatto che la vicinanza ai decisori politici, la vicinanza alla possibilità di fare carriere nelle istituzioni ha qualche volta mosso gli economisti nella direzione che dicevo. Però fondamentalmente negli ultimi anni la disciplina ha conosciuto una grande duttilità e una grande capacità di rinnovarsi e di prendere atto di quello che è avvenuto. Non sempre avviene questo nelle discipline sociali, ecco. Sì, le chiederei infine, professor Pedretto, un suo commento da economista, proprio da accademico, sull'Europa. Europa, edificio incompiuto, possiamo definirlo, con una moneta unica, ma manca molto altro. Sì, è proprio questo quest'anno è il centenario della nascita di Ciampi, Carlo Azeglio Ciampi, che è probabilmente la figura che più è associata nel nostro paese all'adesione all'euro e all'Europa unita dal punto di vista economico. Se si rivedono i principi e le idee Ciampi manifestava negli anni nella fine del secolo scorso, si vede che l'Europa, che diciamo il mondo economico italiano, ma tutto il mondo diciamo consapevole che aveva in mente era diverso rispetto a questo. Era un'Europa con un bilancio pubblico, era un'Europa che interveniva per la produzione di beni pubblici, che aveva un fisco in parte, un fisco europeo, che armonizzava le imposte. Questo era in mente a coloro che hanno costruito. E la strada è ancora piuttosto lunga, anche se sostanzialmente come dire, è lento, ma la direzione è in corso, È in insomma. corso, ecco, speriamo che possa essere completato questo edificio al più presto. Lo spero veramente, per i miei nipoti, guardi, lo Esatto, spero. infatti Ciampi parlava di zoppia a proposito della, no? Ecco, come se mancasse una gamba. Allora, professore, grazie tante per essere stato con Prego, noi, le grazie a auguriamo voi. buona serata, Buona arrivederla. serata, arrivederci.